E allora, sempre dalla bucolica oasi di Comunia, in quel di San Lorenzo, siamo qua con Nando, che è un compagno di Casoria, che sempre nell'ambito delle interviste sull'autogestione, l'autoorganizzazione, sui loro risvolti rivoluzionari, di pratiche rivoluzionarie per un futuro migliore. Ecco, stiamo sentendo appunto le varie realtà d'Italia. Nando, tu vieni da Casoria, che è una realtà periferica a nord di Napoli, in cui ora state preparando un festival anticapitalista che si svolgerà questo fine settimana. E ci vuoi dire qualcosa? Sì, allora, il festival anticapitalista è previsto per ottobre. Questa è una festa di uno dei quartieri di Casoria, dove diciamo il tentativo di questa festa, che nasce inizialmente come semplice festa di quartiere, fatta da cittadini, organizzata dai cittadini del quartiere stesso, dove noi abbiamo uno spazio, una sede, come collettivo Che Guevara, in questo caso di Casoria. Inizialmente nasce, come dicevo, per 4 anni è stata una festa dove si cercava di combattere quella che era il mortorio di una città che aveva vissuto negli anni 80 la deurbanizzazione della metropoli, cioè di Napoli, e che era diventata una città di napoletani che tornavano per dormire con casoriani quasi estinti, no? E un comune morto su iniziative sociali, dove non proponeva niente né come partecipazione democratica alla vita pubblica sia dell'amministrazione del territorio, né eventi particolari che potessero mettere in relazione i cittadini. La festa di quartiere nasce inizialmente con questo tentativo, cioè di far capire un po' a tutta la città come un quartiere può organizzare e vivere il quartiere stesso, i cittadini come possono allacciare dei rapporti, inizialmente anche attraverso la ludicità di una festa, ma poi mettendo insieme delle iniziative per rendersi comitato, per rendersi cittadini attivi e quindi iniziare a parlare diversamente, iniziare a militare diversamente nella propria città come agglomerato di individui che iniziano a esercitare democrazia diretta sul proprio territorio. La festa oggi, che è la quinta edizione, raggiunge secondo me un livello molto alto, sia di politicizzazione stessa della festa, sia di proposta, che è un po' la sperimentazione che penso stiamo facendo un po' qua a Comunia, alle varie realtà che cercano di mettersi in rete, no? Perché noi siamo a una settimana dalla festa e abbiamo già 30 stand che non sono stand di proposta magari economica, ma assolutamente, la metà degli stand sono politici e sono costituiti tutti da parti sociali, non organizzazioni tipiche della vecchia rappresentanza del movimento operaio, ma tutte situazioni di auto-organizzazioni che stanno nei vari territori. Tipo ci sarà la Terra dei Fuochi di Caivano, che è un'autogestione di individui che si è messa in rete contro l'alto tasso di tumori che c'è a Caivano a causa di un CDR che è stato messo lì inizialmente come deposito durante l'emergenza rifiuti, ma che diventava una vera e propria discarica a cielo aperto nella zona industriale, che ha un po' la similitudine di Giugliano, no? Con tutte quelle ecoballe, magari dai giornali avete potuto vedere, dalle televisioni. C'è la Terra dei Fuochi, ci sono le varie reti antimafia che sono in tutto il napoletano, questo non solo nell'area nord, però quelle reti antimafia che realmente fanno antimafia sul territorio, anticamore sul territorio, con proposte sia pedagogiche e sia con iniziative serie, e non i vari professionisti dell'anticamorra alla Saviano che stanno in giro per l'Italia a fa soldi, diciamo. C'è Resistenza Anticamorra, che è una realtà che oggi è riuscita a avere insieme a un'altra realtà dell'area nord di Chiaiano, che sono insurgenze, sono disobbedienti, hanno avuto la gestione di una terra confiscata alla Camorra e stanno cercando a Chiaiano sempre, stanno cercando di restituirla un po' a tutto il movimento napoletano che parla di anticamorra, a tutta la rete napoletana che parla di anticamorra, e un po' anche alla cittadinanza, facendo di nuovo la coltivazione di queste terre, e vive una situazione seria. Cioè, ultimamente hanno trovato 2 fosse scavate, no? Fuori la selva, come intimidazione da parte di coloro che erano gli ex proprietari prima del sequestro. Cioè, sottoterra antimafia di Frattamaggiore, che lavora più sul lato pedagogico con progetti proprio con bambini, perché comunque nei nostri territori brutto dirlo, ma la mentalità della camorra è quella là un po' vincente, no? Anche perché, essendo stato, questo è un concetto un po' più largo, però si sostituisce adesso anche per la controversia di situazioni personali, cioè ormai la gente se ha problemi, cioè non si rivolge più a quelli che dovevano essere i carabinieri, la polizia, ma si rivolge a queste persone, perché loro risolvono con la violenza prima di qualsiasi passaggio burocratico tu possa fare. E quindi cioè, il lavoro pedagogico è fondamentale, attraverso Manitese, che è un'altra Manitese Sottoterra Antimafia, che sono altre organizzazioni che parteciperanno alla festa di quartiere. Diciamo questa rete soprattutto di anticamorra, perché chi vuole fare l'anticapitalismo a Napoli un po' deve parlare anche di anticamorra, perché chi detiene il capitale a Napoli è la camorra, cioè non puoi esimerti dall'essere una rete anticamorra se sei una rete anticapitalista, ma anche se fossi solamente un cittadino attivo, cioè in qualsiasi problema tu potresti trovare di fronte un appartenente a qualche clan a cui tu vai a intaccare la sua economia normale. Faccio un esempio: se c'è un'associazione che magari vuol prendere in mano una festa nei nostri territori, no? Magari una festa pure patronale, se si propone per fare una festa patronale, cioè avrà sicuramente subito la ripercussione di chi appartenente al clan doveva fare lui la festa, cioè, quindi nel nostro territorio anticapitalismo, militanza, democrazia partecipata combaciano molto con la questione dell'anticamorra. Quindi questa festa fa uno scatto in più, perché poi c'è anche il calcio popolare, l'Afro Napoli, che è un'altra organizzazione che sta attraverso la squadra di calcio fatta da africani, sta facendo la lotta per il permesso di soggiorno e per mettere in contraddizione la questura sul rilascio dei permessi di soggiorno, perché ci stanno i giocatori dell'Afro Napoli che non hanno il permesso di soggiorno, e quindi l'Afro Napoli, con tutto che è iscritto alla terza categoria, non può avere i calciatori perché non hanno permesso di soggiorno. Quindi è una realtà, cioè è un'aggregazione di esperienze auto-organizzate in lotta, che però, come noi siamo qua per avere la necessità di avere un'idea, no? Totalmente alternativa, per capire quale può essere il soggetto futuro che può portare alla rivoluzione, così tu nei territori devi allacciare per forza delle relazioni, metterti in rete con le varie parti sociali che stanno in un territorio. Io dico, non perché vengo dalle periferie e sono provinciale, io dico a questo punto meglio che la questione parta dalle periferie, perché le politiche metropolitane spesso sono un po' incrostate da quelli che sono stati gli scontri storici fra varie organizzazioni e vari collettivi militanti, no? E spesso anche la ritorsione di questa incrostazione si è vista sui territori fra i militanti di alcune organizzazioni, di alcuni collettivi, con altri militanti che non si trovano a militare insieme solo perché magari a livello metropolitano qualcuno non si sopporta più, è troppo incrostato. Invece a cerchiare un po' questa politica, dando una proposta totalmente diversa, di rete, metterla come esperienza e portarla anche qua a Comunia, no? Che cerca di avere, a quanto abbiamo capito, un po' lo stesso senso, quella di capire in una fase del genere quale dialettica, quale rete può fare in modo che nasca anche in maniera lenta, un nuovo soggetto che possa essere la vera guida della rivoluzione e non lasciare a se stesso tutto quello che può essere lo spazio che dovrebbe essere attore principale di questa rivoluzione o rivolta, come la vogliamo chiamare. Quindi appunto una sinergia tra anime diverse, ma che si esplica soltanto in questa festa, o che però prevede, o state prevedendo, o state progettando di portare avanti delle collaborazioni fra di voi anche durante il resto dell'anno politico? Il tentativo, allora, diciamo, sulla questione dell'anticamorra forse non è nemmeno pensato, cioè quando c'è da mettere in piedi anche una semplice giornata di ricordo per una vittima della mafia, cioè è automatico, tutti quelli che militano nello spazio anticapitalista o come organizzazione anticamorra si ritroveranno sempre insieme nei nostri territori a fare un'iniziativa, è quasi non pensata la cosa. Per quanto riguarda mettere in piedi invece uno spazio dialettico serio che possa inglobare nell'anticapitalismo un po' tutti i disagi e tutte le auto-organizzazioni che stanno sul territorio, il primo tentativo che è stato fatto, e che almeno per l'inizio sta riuscendo, è la nascita di un nuovo soggetto fra Noi del collettivo Che Guevara, il movimento Vivace di Arzano e Sottoterra Antimafia di Frattamaggiore, che si chiama Fate Spazio. Fate Spazio ha proprio quella presunzione, diciamo, di cercare di mettere in rete tutte le parti sociali attive, democrazia diretta, serie, che stanno, no, no, i cavalli della politica, diciamo, ma gente che lotta come impegno quotidiano, metterli in rete e cercare di accerchiare Napoli ed entrare in questa politica metropolitana, dove potremmo, per il discorso a cui mi allacciavo prima, potremmo anche cambiare le sorti di una città, che comunque c'è un sentimento di rivolta anche attraverso solamente le elezioni, no? Perché De Magistris è un po' come il fenomeno Grillo, cioè per quanto siano incondivisibili come personaggi, cioè hanno racchiuso nel loro voto un sentimento di rabbia e di rivolta, no? E di totale messa in ginocchio dei partiti storici che stanno nel PD e PDL, dei partiti storici. Ricordiamo Bassolino che ha governato a Napoli Per per 15 15 anni, anni. per 15 anni, poi Rosa Russo Iervolino, loro sono riusciti, dato che il sentimento di rivolta non era un sentimento che stava andando a destra, no? Che stava diventando nazional popolare, era un sentimento di cambiamento reale, loro che si sono messi, inseriti nello spazio dialettico della sinistra, hanno avuto la possibilità, tramite la rabbia delle persone, ed essendo individuati, magari anche erroneamente, come quelli del cambiamento diverso, come un cambiamento totalmente radicale, sono stati votati e hanno piegato da soli PD e PDL, perché il voto, in quel caso il voto ci fa fare questo tipo di analisi. Allora, questo sentimento di rivolta, secondo me, deve essere aggregato ad un tipo di politica totalmente differente e a una soggettività nuova che va a crearsi attraverso le reti che noi possiamo mettere in piedi, però con una nuova dialettica e libera da tutte le incrostazioni che ci stanno in giro. E secondo me dalle periferie questo può partire, perché noi siamo gente abituati. Come anche qua, non è che adesso, con mezzo che stiamo a Roma, stiamo discriminando i compagni che militano in questi territori, però queste sono le esperienze della politica romana, non è la solita politica assembleare. E così noi, nei nostri territori, che siamo persone abituate prima di tutto a tradurre tutto quello che analizziamo in queste situazioni al cittadino comune, alla vecchietta che passa, al ragazzo che se ne fotte, no? Cioè, noi secondo me abbiamo una grande potenzialità di mettere in piedi un nuovo linguaggio e una nuova rete che può essere veramente il soggetto della rivoluzione. Quindi da là dobbiamo ripartire, dobbiamo essere periferia centrici, secondo me, per poi attaccare Roma e Napoli, diciamo, in questo caso. E un'ultima domanda, poi se c'hai pure di Riccardo qualcosa. Tu parlavi, no, appunto, della mentalità della camorra che pervade, appunto, pervade la mentalità fin da ragazzini e gli abitanti di quei posti. Fa una sorta di controstato che però si alimenta anche molto all'interno dello Stato. Mo, ora non, emergenze camorra, i telegiornali non ne parlano più ormai, credo, dal 2008-2009. Però ogni volta che c'è una guerra fra clan che viene pubblicizzata molto dai media o appunto o spunta il nuovo fenomeno otaviano, la soluzione che viene data è sempre quella là dell'invio, il maggiore invio di truppe tra polizia o negli anni 90 pure l'esercito, dando una risposta esclusivamente repressiva del fenomeno Camorra. Quindi te che ne pensi? Cioè può funzionare questo approccio? Mandiamo più polizia a Napoli per sradicare questi clan? O cioè, può essere parzialmente utile ma combinato con altro? O è totalmente fallimentare? Allora, la situazione di ordine pubblico e di controllo del territorio è già delegittimata a priori, no? Perché se tu vedi una delle ultime, almeno quello che ho letto io, una delle ultime relazioni della Commissione Antimafia parlamentare, mi sembra erano 3-4 anni fa, si considera il 36% delle forze dell'ordine corrotte con il sistema. Quindi, inviare altri militari che magari non sono nemmeno del posto, no? Che stanno là semplicemente, io lo vivo il territorio, stanno là semplicemente, in quel caso era Scambia, magari tu facevi riferimento all'eclatante guerra fra gli scissionisti e di Lauro. In quel caso tu vedi tutte le forze dell'ordine intorno al quartiere Scambia, cioè che quasi sembra un fare in modo che se proprio deve succedere qualcosa se lo facciano tra di loro, no? Il Far West chiuso. E anche le varie operazioni alto impatto, no? Che fanno a Napoli, al finale, cioè, si mettono fuori le basi, si capito? E fermano a chi ha acquistato, non è che rompono le basi. Quindi il problema più grande è quello là di agire, ecco, come dicevo prima, si dovrebbe agire anche amministrativamente, cioè nel senso che le amministrazioni comunali dovrebbero investire tantissimo nella cultura, nella controcultura e nel lavoro pedagogico, però è un fatto che purtroppo forse non conviene a nessuno, perché investire tanto in questo gli dovrebbe tutti i loro affari privati si apprestano a fare ogni volta che diventano consigliere comunale o assessore o cose varie. Quindi il lavoro che può fare un militante, almeno, cioè il lavoro poi è relegato a noi, ai militanti di questo territorio. Tipo noi facciamo in continuazione Cine Social Forum, facciamo attività artigianali, se un compagno o una compagna sa lavorare, nel caso nostro è l'argilla, cioè era un compagno che poteva lavorare all'argilla, noi siamo andati nel 219 una richiesta di 10 bambini che potevano imparare l'argilla, no? Fai tu un lavoro sociale, ti sostituisci a quelle che sono le amministrazioni, le forze di polizia e tutti gli investimenti che dovrebbero essere fatti, ti sostituisci perché capisci che l'unica vera contrapposizione che ci può essere è una nuova generazione che parli d'altro. È una questione culturale, non è più una questione, perché cioè, come dicevo prima, il primo ricorso alla malavita è perché lo Stato è assente, no? È perché spesso si confonde lo Stato con la malavita, perché io non sono più del parere che dobbiamo parlare di Stato parallelo, cioè ormai Agamur ha un'altra forma, ha una forma imprenditoriale, lo si vede, no? Con 'ndrangheta in Germania, a Milano, no? Ha una Ma forma. anche qua a Roma e Castelli, insomma, perché quei capitali arrivano anche qua. Appunto, cioè dove c'è capitale, cioè, ci sono loro che gestiscono direttamente, cioè, ormai loro sono imprenditori, sono manager, sono parte integrante, cioè, loro sono il capitale, non è uno stato parallelo. E il problema più grande è quello, quindi cioè, la gente questo lo ha capito, allora non c'è fiducia verso una ricostruzione di uno stato pubblico e quindi cioè, quale miglior cosa, se si tratta delle loro tasche, di rivolgersi direttamente al clan di turno per risolvere i loro problemi. Quindi il problema è culturale, ci vuole una grande azione culturale e le amministrazioni, senza essere anticapitaliste, potrebbero fare solo un po' di buon governo, dovrebbero destinare perlomeno il 46-47% alla questione pedagogica in ogni città del meridione, secondo me. E questo, insomma, questa attività ho saputo che ha dato anche fastidio in passato ai clan, perché ho saputo che nel 2008 un consigliere comunale di Casoria è stato poi anche vittima di un'aggressione sotto casa da parte di gente che probabilmente era riconducibile agli ambiti camorristici. Sì, era il 2006, era il compagno più conosciuto del nostro collettivo, non era il consigliere comunale che era lì, era il nostro candidato sindaco, però lui si è sempre dimesso per fare i giovani, a fare il consigliere comunale ed è stato lui che è stato vittima di un'aggressione da parte di quattro persone sotto casa, ha riportato fratture di costole, denti, zigomi. Se non era intervenuta la gente del posto ad urlare dal balcone, a chiamare la polizia, forse non si sarebbero fermati, questo non lo possiamo sapere. È sicuramente riconducibile a quello perché quello è stato un periodo in cui noi abbiamo fatto più di una denuncia, perché a un certo punto stanchi dell'aggressione, proprio della prepotenza con la quale si potevano mettere in piedi delle cose nei nostri territori, abbiamo iniziato anche a denunciare alla Procura della Repubblica assente totalmente, cioè perché noi abbiamo fatto una denuncia sulla privatizzazione a commissione diretta dell'acquedotto di Casoria, e non è mai stata fatta. Hanno costruito media world su terre sulle quali non le potevano costruire e non è mai stata fatta niente. Altre costruzioni stavano nel capitolo della commissione antimafia per vicinanze a imprenditori, vicine ai clan e tutto, e non è stato fatto niente. Poi c'era una grande battaglia che noi facevamo anche con quello delle pompe funebri, che era cioè tipo le pompe funebri pagava 10.000 euro un funerale a Casoria. Cioè, se morivi 10.000 euro, i rafan mutui, lui si faceva fare un assegno prima di 5.000, poi avevi in nero, gli dovevi dare altro, ma fortunatamente l'hanno arrestato, ci hanno dato 416 bis, però È stato un momento forte che è riconducibile anche alla semplice cosa che dicevo prima, cioè quando partecipi, quando fai democrazia diretta, quando dici la tua, senza fare anticamorra e anticapitalista, già hai un problema, già è quello. Perché tu dicevi solamente istituiamo comunalmente un funerale accessibile ai poveri, a un reddito che va, un reddito operaio, no? 14.000, 18.000 lordi all'anno. Questo può accedere tramite comune. Noi dicevamo solo quello, la battaglia era quella. Non, sicuramente tu mettevi in discussione tutto un sistema facendo quella battaglia, però la battaglia pubblica era quella. Oggi finalmente si è arrivato tramite, poi c'è stato anche il servizio delle Iene su questo di Casoria che aveva le pompe funebri. Cioè, oggi si è arrivato ad avere una competizione anche tra varie imprese di pompe funebri e il funerale lo paghi 2.000, 1.800. Però c'è stato un percorso che ha portato a tutto Di questo, di mobilitazione. mobilitazione che ha portato a tutto questo. Allora, ringraziamo Nando, noi continuiamo a dare l'appuntamento per questo weekend alla festa a Casoria, a cui parteciperemo, a cui forse faremo pure qualche altra intervista, quindi grazie, grazie Nando Grazie a e voi.